Media World ha aperto 2 anni, 3 anni fa una procedura per 900 e passa licenziamenti che si è parzialmente risolta con uscite volontarie, incentivate, e l'adozione di un contratto di solidarietà in alcuni punti vendita dove non si era ancora trovato l'equilibrio. Facciamo questo incontro a metà febbraio dopo mesi di assenza. Lì c'è stato un cambio del board, come lo chiamano, insomma, della parte alta dell'azienda, e per dei mesi non rispondevano a nessuna sollecitazione. Vediamoci, il 16 febbraio finalmente ci incontriamo, e lì, dopo una presentazione del nuovo responsabile vendita che è arrivato, dove sostanzialmente ci ha detto quali dovrebbero essere le strategie, anche se piuttosto generiche, dentro ai quali diceva bisogna fare una selezione dei negozi tra virgolette sostenibili, quelli che si autosostengono con il loro punto vendita. Poi passa la parola a chi gestisce le relazioni, al settore del personale, e questi ci annunciano così che il 31 di marzo chiuderanno 2 punti vendita perché non sono sostenibili, che erano 2 punti vendita che non erano neanche in contratto di solidarietà, quindi non c'erano aperti degli esuberi. Uno di Grosseto e uno, quello che è dentro la stazione centrale di Milano. Non hanno intenzione di praticare nessun licenziamento, ma praticheranno dei trasferimenti in giro per la penisola. Poi ci dicono a fine aprile scade il contratto di solidarietà e ci annunciano che non hanno nessuna intenzione di rinnovarlo. Abbiamo ancora un po' di mesi disponibili in base alle norme, però loro non sono disponibili ad utilizzarli, anche lì intendono procedere con dei trasferimenti. Poi ci annunciano che trasferiranno la sede amministrativa, parliamo di circa 500 persone, che è a Curno, la trasferiscono verso Milano, vicino a Monza, se ho capito bene, eccetera eccetera. Lì non ci hanno dati i termini, immaginiamo st'autunno qua, trasferiranno la sede lì per dentro a un punto vendita che lo ridurranno, e negli spazi rimasti dovrebbero comprimerci 500 dipendenti. Poi dal mese di maggio, festa del lavoratore, il 1 maggio, l'ultima notizia che ci danno è smettono di pagare il lavoro domenicale maggiorato al 90% per storia di quell'azienda lì. Cioè, non c'è un contratto, a essere onesti, ma loro da sempre applicano una maggiorazione sul lavoro domenicale del 90% come maggiorazione festiva. Loro dicono dal 1 di maggio applicheremo il 30% previsto dal contratto nazionale, quindi taglieranno. Non è che hanno detto sono proposte, sono comunicazioni. Si sono fatte quelle prime 8 ore marzo che sono andate molto bene, poi in tutta Italia sono arrivati dati molto alti di adesione allo sciopero. Le iniziative che abbiamo fatto sono: le strutture nazionali hanno chiesto la convocazione al Ministero, visto che l'accordo, il contratto di solidarietà è stato sottoscritto al Ministero, qui abbiamo chiesto che riconvochi le parti per vedere con un terzo se c'è possibile riprendere una relazione un pochino più corretta, e nel frattempo però sono state proclamate altre 8 ore di sciopero da gestire a livello territoriale. Quindi quest'altro pacchetto gestito a livello territoriale invece cercheremo di gestirlo a sorpresa nei momenti di maggior dolore, per far vedere che insomma il conflitto cresce. A Grosseto, che è uno dei negozi che chiudono, che è situato dentro un centro commerciale, l'azienda il 16 di febbraio sostanzialmente cosa ci ha detto? Qui l'azienda ha deciso la chiusura, non siamo riusciti ad anticiparvela perché insomma noi ce l'ha anche a noi, ce l'hanno comunicata qualche ora fa, ci dicono. Questo mette in discussione l'affidabilità, perché facciamo un incontro con il centro commerciale per capire un po' le cose. Il centro commerciale, un po' allibito, dice ma guardate che noi la disdetta del contratto di affitto di Media World l'abbiamo ricevuta il 1° di settembre, quindi l'azienda era almeno 6 mesi che aveva deciso la chiusura di quel punto vendita, e mettere i dipendenti in una condizione, ci incontro, lì ci sono anche delle coppie, sono fatte delle famiglie, dei figli tra l'altro, mettere in una condizione dove in 40 giorni diventa difficile mettere in pista qualsiasi ipotesi. Adesso lì ci stiamo muovendo, abbiamo contattato l'amministrazione, il centro commerciale, pare un nuovo marchio che entra in quei locali, però il problema è che ormai siamo, fra qualche giorno c'è la chiusura e i trasferimenti coatti sono già stati comunicati. Quanti sono, come dire, i lavoratori in ballo a livello nazionale ma anche a livello regionale? A livello regionale non abbiamo procedure aperte ad oggi, e loro continuano a non dirci, gliel'abbiamo chiesto ripetutamente, quali sono la mappa dei punti vendita che sono a rischio di non sostenibilità, come dicono loro, per cominciare a farci un quadro, ma loro rifiutano di dircelo. Non dovrebbero esserci problematiche, però non lo so, perché loro, appunto, Grosseto non era neanche coinvolto, o Milano, non erano due punti vendita coinvolti dal contratto di solidarietà o con esuberi dichiarati, però hanno deciso improvvisamente la chiusura, per cui, come dire, più nessuno si sente al sicuro, compreso il fatto perché loro, a una domanda che gli ha fatto un dipendente di Grosseto, ha detto: ma io se vado in quel punto vendita là dove mi trasferite, quindi mi avete dato un elenco, provo a scegliere, ma dopo non è che chiudete quello lì, e l'unica garanzia che dà l'azienda è: dal momento in cui ci vai, per 6 mesi ti garantiamo che non chiudiamo. Fra le persone che sono in contratto di solidarietà e che quindi sono a rischio di trasferimento, perché se non viene rinnovato il contratto di solidarietà partiranno le azioni, e le persone di quei negozi lì che sono in chiusura, che quindi tra qualche ora si trasferiranno, stiamo parlando di una platea di teste, parliamo di numeri che sono vicini ai 170-180 persone.